notizie in 60 minuti. Le 13 e 30 secondi, buona giornata. Effetto giorno inizia, questi sono i titoli e le notizie principali. Via libera della Corte Costituzionale tedesca al fondo Salva Stati, sono stati rigettati tutti i ricorsi. Il Ministero dell'Interno invia rinforzi a Taranto dopo l'agguato di ieri sera. Putin parla a Mosca e accusa l'Occidente, a Kiev dice c'è stato un colpo di Stato. La Francia annuncia sospesa la partecipazione della Russia al G8 di giugno. Palazzo Chigi ha precisato in mattinata, sono solo ipotesi quelle sulla revisione della spesa, tra i tagli ci sarebbero anche 85.000 statali. Il ministro Lorenzina Radio 24 dice nella sanità possibili risparmi di 10 miliardi in 3 anni. Una buona giornata da Enrico Paglierini, bentornati a Effetto Giorno. Ci colleghiamo subito con la Germania perché la Corte Costituzionale tedesca ha rigettato i ricorsi avanzati contro il meccanismo di stabilità, ovvero il Fondo Salva Stati. Sembra una cosa complicata, ma riguarda un po' tutti noi. Che cosa significa? Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, buongiorno. Sì, buongiorno. La Corte Costituzionale ha riaffermato la legittimità del Fondo Salva Stati, il cosiddetto ISM. Perché dico riaffermato? Perché in realtà aveva già dato un primo via libera nel 2012, nella fase più acuta della crisi dell'Eurozona, quando il fondo era stato costituito e poi ha partecipato ai salvataggi di Grecia, Irlanda, Portogallo e delle banche spagnole. Quindi ha riaffermato che il fondo è legittimo, quindi non viola la sovranità del Parlamento tedesco in materia fiscale. Questa è una buona notizia, perché il fondo, che dispone di 500 miliardi di euro, resta così a disposizione per eventuali altri salvataggi, sperando che non ce ne sia bisogno. Naturalmente il caso è diverso da quello più famoso in cui è stata coinvolta la Corte Costituzionale tedesca, che riguarda invece il piano OMT lanciato da Mario Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea, per interventi nei paesi di crisi in casi di assoluta emergenza. Questo caso è stato stralciato e rinviato dalla Corte Costituzionale tedesca alla Corte Europea di Giustizia, della quale si attende poi la sentenza nei prossimi mesi. Bene, grazie ad Alessandro Merli da Francoforte. Ricordiamo che oltre 10.000 cittadini tedeschi avevano impugnato questo meccanismo europeo durante la fase più drammatica della crisi dell'euro. Allora sentiamo se questa notizia ha effetti sulla borsa. Deborah Rosciani, buongiorno. Allora, buongiorno anche a voi. Diciamo che una reazione immediata dopo la notizia della decisione della Corte Costituzionale tedesca non c'è stata e gli indici hanno fatto fatica a prendere una decisione precisa, una direzione precisa. Stamattina hanno aperto in negativo, Milano quella più volatile, è andata al di qua e al di là della parità più volte. Poi improvvisamente invece uno scatto e adesso gli listini sono tutti positivi e anche in maniera piuttosto consistente. Partiamo da Londra che guadagna lo 0,3%, Francoforte che è stata la più pesante stamattina adesso recupera tutte e guadagna lo 0,6, Parigi più 0,88, Milano svetta fra tutti i rialzi e guadagna oltre un punto percentuale. Per effetto anche dei forti acquisti sul settore bancario, stamattina i protagonisti sono ancora Monte dei Paschi, Mediolanum e Intesa San Paolo. C'è una notizia che forse può aver contribuito a galvanizzare gli listini europei stamattina, c'è un rapporto sulla situazione dell'euro da parte dell'agenzia di rating Moody's che dice, commentando anche la situazione ucraina, la situazione dell'eurozona nel suo complesso è nettamente migliorata e lascia spazio ad interventi selettivi sul rating di alcuni paesi, ma è da escludere che analoghi provvedimenti possano essere presi a beneficio dei paesi periferici. Comunque indicazioni buone da parte di questa agenzia che probabilmente è stata presa a spunto anche per far tornare gli acquisti sui listini. Bene, grazie Deborah. Adesso la cronaca. Parliamo dell'agguato avvenuto ieri sera a Palagiano, siamo a 20 chilometri da Taranto. Il Viminale ha inviato 60 uomini di rinforzo a Taranto per coadiuvare le forze dell'ordine locali nel controllo del territorio dopo l'agguato di ieri sera, in cui è stato ucciso un bambino di 3 anni assieme con la madre Maria Carla Forneri e il compagno di lei Cosimo Orlando, un pregiudicato di 43 anni, probabile obiettivo dei killer che hanno fatto fuoco intorno alle 21.30 lungo la statale 106. Quando sono intervenuti i carabinieri, chiamati dalle auto di passaggio, pensavano si trattasse di un incidente. Davanti ai loro occhi la barbarie, Orlando agonizzava 60 è morto poco dopo, il bambino che sedeva in braccio a lui e la madre che era al volante, entrambi trucidati, raggiunti da diversi proiettili. Sul sedile posteriore, vivi ma terrorizzati, altri due bambini di 6 e 7 anni, anche loro figli della Fornari e di Domenico Pitruzzelli, ucciso anni fa in un agguato mafioso. Erano diretti a bordo di una Matiz al carcere di Taranto, dove Orlando rientrava ogni sera. Stava infatti scontando la pena per un duplice omicidio, dopo 13 anni di carcere per aver ucciso due ventenni per una storia di mafia e di droga. Adesso era in regime di semilibertà e ogni sera doveva tornare al penitenziario. I killer hanno affiancato l'auto su cui i cinque si muovevano e fatto fuoco da distanza ravvicinata. Hanno sparato per uccidere, dicono gli investigatori incuranti dei bambini a bordo. Si ipotizza, ma le indagini sono appena partite, che Orlando stesse provando a rientrare nel giro della droga. Intanto il Ministero dell'Interno ha risposto con l'invio massiccio di altri uomini e sono stati istituiti posti di blocco in tutta la provincia nel tentativo di trovare chi ha sparato, ma fino ad ora i killer non sono stati individuati. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo Stato darà una risposta rapida e concreta ad un fatto di inaudita atrocità. Ad assicurarlo è il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Dopo la strage di ieri sera, il responsabile del Viminale ha disposto l'invio a Taranto di 60 fra poliziotti e carabinieri per individuare quanto prima mandanti ed esecutori del triplice omicidio, costato la vita anche ad un bambino. Il premier Renzi oggi ha chiamato il prefetto di Taranto. Soffro come padre prima ancora che da presidente del Consiglio, è stato il suo commento. Di fronte ad una strage così efferata, lo Stato deve reagire, chiede il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, secondo il quale quanto accaduto dimostra quanto la modalità operativa delle mafie abbia dentro di sé un codice di disumanità e di barbarie assoluta. La strage commessa a Taranto con l'uccisione di un bambino di soli 4 anni rileva, se ce ne fosse ancora bisogno, la brutalità della violenza mafiosa che non conosce alcun argine morale, gli fa eco la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosi Bindi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È stata scoperta in Sicilia una rete di trafficanti di uomini egiziani. Sentiamo il servizio. Potrebbe essere definita un'agenzia viaggi, se non fosse che i clienti sono migranti costretti a pagare cifre altissime ai trafficanti di uomini per riuscire a raggiungere i paesi del nord Europa. In Sicilia è stata scoperta una banda di egiziani che nascondeva in strutture fatiscenti e in pessime condizioni gli stranieri sbarcati nel siracusano, quelli che erano riusciti a non farsi identificare e quelli che erano fuggiti dai centri di accoglienza. Un'altra tappa, dura e costosissima, per egiziani e siriani che passano per l'Italia per poi raggiungere altre mete. La banda si preoccupava inoltre di garantire la fuga degli scafisti. 10 persone sono state arrestate fra Siracusa, Catania, Milano, Como, Anzio e Andria. A loro viene contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata a favorire l'ingresso e la permanenza irregolare sul territorio italiano ed europeo di stranieri. Altri 47 egiziani erano già stati sottoposti a fermo durante le indagini delle questure di Siracusa e Catania e dello SCO di Roma. Sequestrate anche 3 navi madre, utilizzate dai trafficanti per portare i migranti fino a 150 miglia dalle coste italiane. Da lì passavano su piccole imbarcazioni fatiscenti con gli scafisti che li portavano in Sicilia. E sempre in tema di immigrazione, ieri le navi della Marina Militare hanno salvato quasi 600 persone in 2 diversi interventi a sud di Lampedusa. Un centinaio le donne, 63 i minorenni. Si tratta di persone di nazionalità siriana, palestinese ed eritrea. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altro tema in primo piano, quello legato alla Crimea. Le grandi democrazie del mondo definiscono un'azione illegale la proclamata indipendenza, il referendum e la possibile annessione alla Russia, annessione che a questo punto è quasi certa perché il presidente russo Vladimir Putin ha firmato poco fa al Cremlino con i dirigenti della Crimea e di Sebastopoli l'accordo per il loro ingresso come nuovi soggetti della Federazione Russa, accordo che deve essere ratificato dal Parlamento contestualmente ad una nuova legge, ma sempre Putin ha chiesto ai due rami del Parlamento di preparare la legge per l'ingresso della Crimea in Russia e di ratificare l'accordo sul loro ingresso nella Federazione Russa. Sentiamo il servizio. Rispetteremo tutte le nazionalità in Crimea. Parla già come se la Crimea fosse annessa alla Russia e ne ha titolo Vladimir Putin dopo il referendum di domenica. Nei fatti, Putin potrebbe non voler lasciar passare nemmeno un giorno senza rispondere agli Stati Uniti, che ieri, assieme all'Europa, hanno deciso di introdurre sanzioni nei confronti di alcuni funzionari di Mosca. La lista nera del presidente russo contro Washington potrebbe essere già pronta. Le misure adottate ieri, a dire il vero, non sono poi così invasive e anche oggi sembra che la crisi viaggi su un doppio binario, molto più duro nelle parole che nei fatti. Mentre i ministri francesi degli esteri e della difesa annullano la visita a Mosca, Parigi fa sapere che l'invito per Putin alle celebrazioni del D-Day resta valido, salvo poi affermare in un tweet che la partecipazione della Russia al G8 è sospesa. Sulla strada delle sanzioni, che per il Cremlino suscitano ironia e sarcasmo, si incammina anche il Giappone, che ha congelato i negoziati sugli accordi per investimenti ad ampio raggio e le intese bilaterali sull'uso pacifico dello spazio. Tokyo ritiene che il referendum di domenica scorsa violi la Costituzione dell'Ucraina, referendum incostituzionale secondo Kiev, che chiede di non riconoscere l'indipendenza della Crimea. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo dell'Italia nuovamente, che ha sofferto nella crisi più di tutti i paesi OCSE la recessione, ma le riforme stanno andando nella direzione giusta, almeno dice l'OCSE. Sentiamo. Lo sguardo sulla società dello studio OCSE mostra un'Italia che ha subito un contraccolpo dalla crisi, quantificabile in 2.400 euro in meno per famiglia ogni anno, facendo una media tra il 2007 e il 2012, quasi il doppio di quanto la crisi ha bruciato in media per le famiglie della zona euro, e cioè 1.100. Il reddito medio pro capite in Italia è sceso perciò in 5 anni a 16.200 euro. Tra le cause, dice l'OCSE, il sistema di previdenza sociale scarsamente preparato al boom di povertà e disoccupazione e il deterioramento del mercato del lavoro, soprattutto per i giovani. Ma pur essendo ora l'Italia 20esima su 34 paesi che aderiscono all'OCSE, l'organizzazione parigina promuove le riforme del lavoro e del welfare, che vanno nella giusta direzione, perché il rischio è di radicare difficoltà economiche e disuguaglianze. In 5 anni il 10% più povero ha perso in media il 6% l'anno, mentre il 10% più ricco ha perso solo un punto. In un contesto in cui il tasso di povertà tra i giovani è aumentato di 3 punti percentuali, arrivando al 15,4%, e quelli sotto 18 anni, 2 punti percentuali. I giovani disoccupati o inattivi, anche nell'educazione, i cosiddetti NEET, sono aumentati di 5 punti in 5 anni. Giovani e giovanissimi toccano il fondo più dei quarantenni e degli over 75, un trend anche per l'avvenire con il sistema attuale e senza cambiarlo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le grandi navi da crociera potranno per ora continuare a transitare davanti a San Marco a Venezia. Il TAR del Veneto ha accolto la richiesta di sospensiva delle limitazioni al passaggio delle grandi navi decise dalla riunione interministeriale del 5 novembre. Il ricorso era stato presentato da Venezia Terminal Passeggeri, dal Comitato Cruise Venice e da una decina di imprese del settore. L'udienza di merito è prevista per il 12 giugno, ma il governo potrebbe prendere una decisione definitiva sulle vie alternative entro giugno. Il presidente del Cagliari Calcio, Massimo Cellino, accusato di non avere pagato 400.000 euro di IVA per una barca a vela acquistata negli Stati Uniti e poi portata in Italia, è stato condannato a pagare una sanzione di 600.000 euro e l'imbarcazione è stata confiscata. La barca era stata portata in Italia con un permesso turistico, ma senza poi regolarizzarne la posizione davanti al fisco. Tra poco parleremo del piano, ma soprattutto delle indiscrezioni del piano di tagli alla spesa pubblica. Adesso ci fermiamo per le notizie che arrivano da strade e autostrade. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Le 13:16, torniamo in diretta con Effetto Giorno, queste le notizie principali. Putin firma con la Crimea l'accordo per entrare nella Federazione Russa. La Francia annuncia intanto sospesa la partecipazione della Russia al G8 di giugno. Palazzo Chigi precisa solo ipotesi sulla revisione della spesa, tra i tagli ci sarebbero anche 85.000 statali. Il ministro Lorenzin, Radio 24, dice nella sanità possibili risparmi di 10 miliardi in 3 anni. Via libera della Corte Costituzionale tedesca al Fondo Salva Stati, sono stati rigettati i ricorsi. Il Ministero dell'Interno invia rinforzi a Taranto dopo l'agguato di ieri sera. Ebbene, adesso ci colleghiamo con Roma. Buongiorno a Vincenzo Miglietta. Ciao Vincenzo. Sì, buongiorno. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, parliamo dei programmi e soprattutto a questo punto delle indiscrezioni sul piano di tagli alla spesa pubblica. Che cosa si sta dicendo nelle ultime ore? Sì Enrico, partiamo subito da quanto fatto trapelare. Allora, circa mezz'ora fa da Palazzo Chigi, fonti del governo precisano infatti che il documento sulla spending review circolato nei giorni scorsi e ripreso oggi su alcuni organi di informazione è soltanto una delle bozze e non la versione definitiva del lavoro del commissario Carlo Cottarelli. Cottarelli, che nel primo pomeriggio sarà di nuovo in commissione bilancio del Senato e avrà dunque l'occasione per mettere nero su bianco questo ed altri punti al centro delle polemiche. Ma rumori che oggi si concentrano soprattutto sul presunto taglio degli statali, si partirebbe da una stima di 85.000 eccedenze tra il personale della pubblica amministrazione, questo al 2016, ossia tra due anni, una misura che secondo documenti attribuiti a Cottarelli potrebbe generare un risparmio per lo Stato di circa 3 miliardi, risparmio Enrico che sarebbe garantito dal contestuale blocco totale del turnover. Interventi più in generale quelli di spending review che andrebbero ad affiancarsi ai tagli alle forze dell'ordine, in parte agli F-35, ai costi della politica, alle auto blu, agli incentivi alle imprese e così via via per 33 voci fino alle pensioni di guerra e di reversibilità. È tutto, linea allo studio. Bene, grazie Vincenzo Miglietta. E a proposito di risparmi, ecco che cosa ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervistata questa mattina a Radio 24 da Giovanni Minoli. I tagli lineari in questo momento alla sanità non solo non servono ma fanno male. Noi abbiamo avuto 25 miliardi in meno in questi anni e ancora abbiamo in atto la cura Monti. Oggi fare la cura Cottarelli tagli... adesso cosa vi porta? La cura Cottarelli noi la stiamo cercando di portare in un altro tema e cioè? Renzi ha detto di sì, e cioè risparmiamo all'interno con tagli non lineari ma con risparmi proprio quantificati. Con tagli mirati. E poi da reinvestire invece nel sistema sanitario stesso che oggi ha bisogno di investimenti in infrastrutture, in tecnologie e in risorse umane. Io penso che noi possiamo recuperare 10 miliardi in tre anni. 10 miliardi in tre anni, e in effetti lo si dice spesso, ci sono ancora tantissimi sprechi nella macchina pubblica e quindi se si va ad analizzare il funzionamento della macchina pubblica i risparmi si possono ottenere. Sono le 13:19, questa è Radio 24, questo è Effetto Giorno. Saluto Rossana Bettore che è il segretario generale della CGIL Funzione Pubblica. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Naturalmente, lo abbiamo detto anche poco fa, GR24, all'interno delle nostre notizie, è che stiamo parlando di ipotesi, però sicuramente, molto probabile, diciamo così più che sicuramente, un taglio, non stiamo parlando naturalmente di licenziamenti, al numero delle persone all'interno della pubblica amministrazione è molto probabile. Questa ipotesi come vi vede? Ma guardi, io siccome sto ai numeri... soprattutto alle cose che ho letto oggi sui giornali, già ieri, in cui si parla di 85.000 esuberi nella pubblica amministrazione, 85.000 sono un'enormità, e in più si parla di blocco completo del turnover da subito, era previsto dal 2017, invece Cottarelli sembrerebbe dire che bisogna farlo immediatamente, è evidente che ciò significa che stai ragionando su una riduzione degli spazi pubblici, perché sennò non si spiega. E siamo di nuovo ai tagli lineari sul personale, nel senso che si parla, poi adesso ho sentito la ministra che diceva non tocca la sanità, io ho tutte queste certezze, spero che la ministra abbia ragione, ma tutte queste certezze non le avrei. E quindi parliamo di numeri senza sapere quei numeri dove ricadono seriamente. Come certo. Tuttavia è esperienza di tutti i giorni, di molti cittadini, ed è una cosa che si dice da tanti anni, che nella pubblica amministrazione, non ovunque, naturalmente bisognerebbe poi andare ad analizzare le organizzazioni, ma in alcune aree c'è troppo personale. Su questo non ci sono dubbi, nemmeno voi avete dubbi. No, che troppo personale possiamo dirla così, che c'è personale mal distribuito. Perché tu hai ad esempio il Ministero della Giustizia che viaggia con 6.000 unità in meno, altri ministeri che invece hanno personale in esubero o organizzato male, perché poi c'è anche un problema di come viene organizzato, come organizzi i servizi. Quindi su questo io sono non solo convinta che bisogna metterci le mani, sono convinta anche che si può pensare a un meccanismo di modulazione dei servizi e del personale dentro i servizi, provando a capire anche se ci sono spazi per nuove assunzioni, perché qui siccome si parla di esuberi ma non si parla di assunzioni, c'è un tema come quello dell'assistenza oppure come quello dei beni culturali e della sicurezza del territorio che non viene mai affrontato. Mentre Cottarelli parla anche di vecchiaia dei dipendenti pubblici, di anni, cioè sono i dipendenti più anziani in Europa. Allora, c'è qualcosa che non torna, perché da una parte sono troppi, però poi non sono troppi e anziani. E anziani, però non ci sono piani assunzionali, perché se tu parli di blocco totale del turnover è evidente che non entra più nessuno. Senta, voi avete in programma degli incontri con il governo? Ad oggi no, cioè, nel senso che noi abbiamo unitariamente CGL e CISL del lavoro pubblico chiesto a tutti i ministri, facendogli gli auguri per l'insediamento, di incontrarli, anche perché non c'è un ministero che abbia ancora detto qual è la dotazione organica, cosa c'è in più, cosa c'è in meno, perché poi appunto parliamo di numeri che non hanno una certificazione da chi avrebbe dovuto già farla con Lei dice non abbiamo in programma nessun incontro, lo avete chiesto e lo chiederete? Certo, l'abbiamo già chiesto, ma continueremo a chiedere ancora di più dopo il piano Cottarelli, fra l'altro, che ormai dovrebbe uscire di scena, se non ho capito male, ma questa è una mia libera interpretazione, perché mi pare che Palazzo Chigi ha detto che avvoca a sé il piano Cottarelli, che quindi da questo momento in poi decide Palazzo Chigi. Quindi lì dovremmo avere l'incontro, perché Cottarelli i tavoli li ha fatti, poi abbiamo semplicemente consegnato materiali e riflessioni, ma non c'è stato un confronto. Ci aspettavamo, una volta presentato il piano, di capire e di poter dire cosa pensavamo di quel piano. Ad oggi non c'è. Certo, sicuramente nel pomeriggio, dopo l'audizione di Cottarelli, sapremo qualche dettaglio in più. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a lei, arrivederci. A proposito di dipendenti pubblici, una notizia che riguarda la scuola: la Camera sta esaminando il decreto legge sulla proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. Il testo è già stato approvato dal Senato e scade il 23 marzo. Altro tema su cui lavora la pubblica amministrazione è quello del pagamento dei debiti alle imprese. Quante volte ne abbiamo parlato? Tra gli enti locali che dovrebbero regolarizzare i pagamenti ci sono le regioni. In Sicilia da 8 mesi la situazione non si sblocca e anche oggi si cerca il voto all'Assemblea regionale. Un migliaio di imprese interessate, un budget da 1 miliardo che porterebbe nuova liquidità in un sistema come quello siciliano in grande difficoltà, costi sostenibili per la regione siciliana. Ma il disegno di legge che prevede l'accensione di un mutuo trentennale da parte della regione siciliana con il Ministero per l'Economia per il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese, da 8 mesi è in attesa dell'approvazione dell'Assemblea regionale ed è finito sotto il fuoco di fila di una parte di deputati che accusa il governo regionale di voler favorire le aziende del nord. La Sicilia resta quasi l'unica regione non aver approvato la norma, pur sapendo che si tratta di un atto previsto dal decreto legge 35 del 2013, non solo utile ma che espone l'isola alle sanzioni dell'Unione Europea. Oggi pomeriggio il disegno di legge sui pagamenti è all'ordine del giorno dell'Assemblea regionale, cui va il richiamo del presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. I debiti vanno pagati, dice, e se l'unica strada è il mutuo, quello va acceso. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Le 13:25, adesso parliamo a proposito di governo del Premier Matteo Renzi. Elisabetta Fiorito in diretta dalla Camera, buongiorno. Sì, buongiorno Enrico, ovviamente parliamo del giorno dopo l'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e ci sono critiche e scetticismo da parte delle opposizioni. Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini attacca la cancelliera e custode degli interessi tedeschi: se la Merkel promuove Renzi, per gli italiani è una fregatura solenne, le regole in Europa valgono solo per i poveretti e noi siamo andati a Berlino da poveretti. E anche Forza Italia non è da meno. Per Renato Brunetta, Merkel diceva più o meno le stesse cose anche di Monti e Letta, e ora ha detto le stesse cose di Renzi, che all'apparenza dice esattamente il contrario di Monti e Letta. Beppe Grillo poi si lancia invece in un paragone calcistico e paragona Renzi a Seedorf, l'allenatore del Milan, perché dice che sono legati, perché tirano in ballo il vecchio alibi della colpa dell'altro. Per Renzi la colpa dei conti dissestati dello Stato è di Letta, per Seedorf la catastrofe milanista è di Allegri. Intanto però Matteo Renzi è tornato a Palazzo Chigi e twitta: ci sono e sono al lavoro. A te Enrico. Il punto. di Stefano Folli. All'indomani della visita del nostro Premier a Berlino, due considerazioni. La prima, c'era un'evidente simpatia da parte della Merkel e un desiderio di incoraggiare il giovane italiano giustamente orgoglioso e ben determinato ad andare avanti. Questi complimenti non vanno sopravvalutati perché risentono del clima elettorale sottofondo dell'incontro, tuttavia indicano che qualcosa, anche sotto il profilo psicologico, si muove nella rigida Europa dell'austerità. Secondo, d'ora in poi il sentiero riformatore di Renzi sarà sempre più impervio se davvero egli intende fare le cose seriamente. Le riforme, quelle vere, richiedono tempo e una straordinaria capacità di sconfiggere le resistenze. Le indiscrezioni sul lavoro di Cottarelli nell'oceano della spesa pubblica, ad esempio, segnalano quanto siano drammatiche le anomalie italiane negli stipendi degli alti dirigenti della pubblica amministrazione, per citare solo un caso. Cottarelli fa capire che risultati solidi e duraturi nella riduzione della spesa non sono immediati e per ottenerli occorrerà superare ogni sorta di resistenza. Auguri a Renzi, allora, ha la possibilità di passare alla storia, ma certo non sarà una passeggiata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ecco i nostri titoli. Putin ha firmato con la Crimea l'accordo per entrare nella Federazione Russa. La Francia ha annunciato sospesa la partecipazione della Russia al G8 di giugno. Palazzo Chigi precisa solo ipotesi sulla revisione della spesa. Tra i tagli ci sarebbero anche 85.000 statali. Il ministro Lorenzin a Radio 24 dice nella sanità possibili risparmi di 10 miliardi in 3 anni. Via libera della Corte Costituzionale tedesca al Fondo Salva Stati. Sono stati rigettati tutti i ricorsi. Il Ministero dell'Interno invia rinforzi, 60 poliziotti in più a Taranto dopo l'agguato di ieri sera. Adesso i mercati finanziari. Borse in diretta. 13:31 minuti. Eleonora Micheli dall'agenzia Radio Coro, Il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno. Come vanno i mercati finanziari in questa giornata? I mercati finanziari nel corso della mattina hanno più volte cambiato direzione di marcia, ma alla fine a metà seduta stanno correndo. Piazza Affari è la migliore, con il FTSE MIB in progresso dell'1% e soprattutto il FTSE MIB ha riconquistato quota 21.000 punti che non vedeva in chiusura dal maggio del 2011. A proposito di titoli, quali sono i più importanti in giornata? A proposito di titoli, si può dire che stanno correndo le azioni delle banche, sono tutte ben impostate, persino Unicredit segna più 1,3%, dopo ricordiamo il balzo di oltre il 5% segnato la vigilia sull'ipotesi che la banca possa avere allo studio la quotazione di Pioneer. La migliore comunque è Banca MPS, più 4,2%, visto che gli investitori stanno scommettendo che da un momento all'altro la fondazione possa annunciare di aver ceduto una parte delle proprie azioni, si parla intorno al 20%, a investitori finanziari. Poi invece gli occhi sono puntati anche su Fiat, che segna più 0,3% nel giorno delle immatricolazioni europee, migliorate per il lingotto del 5,6%, tuttavia meno rispetto alle immatricolazioni generali in Europa, salite dell'8%. Chiudiamo con uno sguardo all'euro, cambio euro-dollaro e anche allo spread. Sì, l'euro sta a 1,39, ormai è stabile sotto la soglia di 1,39, soglia che mette in crisi un po' le società che ovviamente esportano. In effetti sono ballerine in questi giorni i titoli ad esempio delle aziende del lusso, che sappiamo sono tra le aziende che esportano di più all'estero, soprattutto nell'area extra euro. Sullo yen vale 141,5 yen, mentre il dollaro yen è pari a 101,61. Il rialzo anche il petrolio vale in questo momento, aspettate un attimo, vale in questo momento 98,45 dollari al barile, più 0,38%. Quindi possiamo dire che si conferma il leggero ribasso del petrolio in questi giorni? No, in questo momento il rialzo è più 0,37% a 98,43 dollari al barile. Molto bene, grazie ad Eleonora Micheli da Radio Coro, Il Sole 24 Ore. A proposito di spread, BTP Bund 179 punti in leggero ribasso. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 13:36 minuti, abbiamo accennato poco fa al mercato dell'auto. Secondo i dati pubblicati dall'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, a febbraio nei 28 paesi della UE le auto immatricolate sono state l'8% in più rispetto allo stesso mese del 2013. Nei primi due mesi dell'anno la crescita è del 6,6%. Buongiorno a Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Pro Motor. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono dati positivi, ma come sempre vanno analizzati più in profondità. Allora cerchiamo di capire se ci siamo già lasciati alle spalle la crisi del settore, visto che questo è il sesto mese consecutivo di crescita per il settore. Sì, è così, è da settembre che il mercato europeo dell'auto sta crescendo e la tendenza positiva sembra accelerare. E fra l'altro interessa anche il mercato italiano, che da dicembre non scende più. Quindi gli ultimi tre dati mensili sono positivi e quindi questo è un dato indubbiamente interessante, anche perché non sono solo le autovetture ad aver invertito la tendenza, ma anche per la moto ci sono, gli ultimi dati sono positivi, e anche per i veicoli industriali e commerciali. Quindi direi che tutto il settore, diciamo, dei mezzi di trasporto su gomma ha invertito rotta e si creano quindi le condizioni per una ripresa. Prima, nel collegamento che abbiamo fatto con i mercati finanziari, abbiamo commentato il titolo Fiat che cresce un po' meno del mercato, però il dato su Fiat è comunque un dato positivo o no? Sì, è un dato positivo perché Fiat comunque cresce un po' meno del mercato, come dicevate, ma Fiat esce da una situazione abbastanza difficile perché aveva deciso di non lanciare modelli nuovi o quantomeno di lanciarne meno dei concorrenti nella fase più acuta della crisi, e quindi ha un problema un po' di rinnovo della gamma, però stanno arrivando modelli nuovi, altri arriveranno, e quindi Fiat nell'Unione Europea perde soltanto uno 0,2% di quota di mercato, quindi direi che è in recupero. Io ringrazio Gianprimo Quagliano. Potremmo dire, Gianprimo, che per mesi e mesi e mesi, commentando questi dati, non ci hai dato notizie positive. Da un po' di tempo è cambiato il vento. Purtroppo gli anni passati sono stati particolarmente difficili, però il vento è proprio cambiato, e se la ripresa economica soccorrerà il mercato dell'auto, io penso che in tempi relativamente brevi vedremo dei risultati molto più interessanti di quelli del 2013, che è stato l'anno più nero della crisi. Il peggiore. Grazie a Gianprimo Quagliano, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Adesso dalle auto al cibo, due cose che spesso ci attirano e affascinano. Ci colleghiamo con il centro di Milano perché, soprattutto per la città di Milano, ma direi un po' per il Made in Italy, c'è un'altra buona notizia. Maria Luisa Pezzali, collegata in diretta da Milano. Dove sei, Maria Luisa? Buongiorno Enrico, a te e agli ascoltatori. In questo momento mi trovo in piazza 25 aprile davanti al nuovo Italy Smeraldo, che è aperto appunto questa mattina. Sono proprio davanti all'ingresso, ne sono appena uscita perché all'interno la festa, la musica è a tutto volume. La coda davanti all'ingresso è ancora piuttosto lunga da questa mattina alle 10, quando c'è stato il taglio del nastro da parte del sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Si è affollata molta gente davanti all'edificio qui in piazza 25 aprile, un edificio che, lo ricordiamo, ospitava lo storico Teatro Smeraldo di Milano. Tre livelli, 5.500 metri quadrati, i numeri di questo nuovo Italy, il 25esimo in Italia e nel mondo, per quella che è ormai diventata l'insegna simbolo appunto del Made in Italy agroalimentare. Ho chiesto un dato sugli ingressi, sugli scontrini battuti al momento, non c'è un dato disponibile, però si sa che qui Italy punta a 3 milioni di visitatori l'anno. A New York, pensate, i visitatori sono 6. Ecco, un evento sicuramente di costume per questa città, che guarda con molta attenzione in questo momento alla cultura del cibo in previsione dell'Expo, perché lo sappiamo, l'anno prossimo Milano ospiterà l'Expo e il tema dell'Expo sarà proprio nutrire il pianeta. Enrico. Grazie Mario. Luisa Pezzali, ti aspettiamo in redazione più tardi, sicuramente un evento appunto importante anche in vista dell'Expo, stiamo parlando di cibo e di buon cibo legato alle tradizioni italiane. A proposito di Italy, c'è una sede anche a Bari e proprio da Bari andranno in onda domani alcuni dei programmi di Radio 24, sia domani che giovedì, nell'ambito della nostra iniziativa Passione Sud. Anche oggi una puntata del nostro viaggio al sud, siamo a Bari. Il futuro a volte sei una bolla di accompagnamento. In piedi sulla banchina del porto di Bari, Francesco Di Vella guarda i container pieni dei suoi spaghetti, di penne e orecchiette e sentenzia: questa è la differenza tra crescere e morire. La differenza per il patron dell'azienda che da 4 generazioni lavora la pasta in Puglia la fa la possibilità di partire. Per questo si era battuto per il ripristino di un treno merci verso i porti della Campania. Per questo, ora che il trasporto su rotaia è stato soppresso, festeggia la possibilità di un primo parziale imbarco su navi MSC delle merci, che però continuano a viaggiare soprattutto su strada. Trasportare i contenitori nei porti campani con i camion. Questo significa maggiori costi per voi? Sì, almeno un terzo in più. Non ci sono compagnie di navigazioni che vogliono investire su Bari per seguire i nostri mercati internazionali, dove oramai se non vendiamo chiudiamo. E nel mercato estero sta il 40% del fatturato della Di Vella, 340 milioni nel 2013, protesa sempre più verso l'estremo oriente e il Giappone, dove tra un po', sorride Di Vella, diranno loro a noi come fare la pasta. Se in Puglia sono una 15 le aziende alimentari medio-grandi, centinaia sono invece quelle con meno di 10 dipendenti, e soprattutto per loro più collegamenti sono più chance di sopravvivenza. Trenitalia abbassa un po' le sue pretese di fitto del binario, non ci sono nuovi consumatori da raggiungere qui per le piccole aziende, o le si mette in condizioni di poter raggiungere i clienti in giro per il mondo a condizioni economiche ragionevoli, oppure sono condannate. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Putin firma con la Crimea l'accordo per entrare nella Federazione Russa. La Francia annuncia sospesa la partecipazione della Russia al G8 di giugno. Palazzo Chigi precisa: solo ipotesi sulla revisione della spesa, tra i tagli ci sarebbero anche 85.000 statali. Il ministro Lorenzina, Radio 24, dice: nella sanità possibili risparmi di 10 miliardi in 3 anni. Via libera della Corte Costituzionale tedesca al fondo Salva Stati. Il Ministero dell'Interno invia rinforzi, 60 poliziotti a Taranto dopo l'agguato di ieri sera. Però prima di dare la parola ad America 24 e a Mario Platero, una notizia di poco fa che riguarda il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che scrive a Carlo Troilo, Associazione Luca Coscioni e Comitato Promotore Eutanasia Legale, e Napolitano scrive: il Parlamento non dovrebbe ignorare il problema delle scelte di fine vita e deludere un sereno e approfondito confronto di idee sulle condizioni estreme di migliaia di malati terminali in Italia. Adesso c'è America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Vladimir Putin ignora le sanzioni dell'Occidente e addirittura rilancia questa mattina, lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito, ha chiesto al Parlamento russo di considerare l'annessione della Crimea, cosa che crea ulteriori complicazioni per una rapida soluzione diplomatica del braccio di ferro tra Russia, America, Europa sui destini della Crimea, ma anche dell'Ucraina. La partita dunque continua, la Casa Bianca resta ferma sulle sue posizioni, non si intravede a breve una soluzione, anche perché la Russia tutto vuole tranne che ci sia uno scambio Crimea alla Russia e il resto dell'Ucraina all'Occidente. Il messaggio di Mosca è chiaro: il danno economico, di cui vi ho parlato ampiamente ieri, il rischio di isolamento, di riduzione di investimenti diretti, per noi passa in secondo piano. E dall'America, vi dicevo, per ora ci sono ancora pochi sviluppi. Dunque oggi vorrei parlarvi d'altro. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è andato in visita in Germania, in Francia il giorno prima, si parla dell'Italia, delle sue sfide in Europa, dell'Italia si parla, si è parlato anche in America, a New York, pensate, attraverso una mostra sul futurismo che mostra il nostro paese di un secolo fa, molto attivo, creativo e propositivo. America 24. Un ospite d'eccezione con me ad America 24, che è Vivian Green, senior curator per il 19-21 secolo al Guggenheim Museum, che ha di fatto coordinato, realizzato questa mostra. Buongiorno Vivian. Buongiorno. Ecco, dunque, intanto una sorpresa, perché Vivian parla un perfetto italiano. Allora, innanzitutto, questa mostra è una mostra straordinaria, molto impegnativa. Quanto faticoso è stato metterla insieme? Ci lavoriamo sul serio da 4-5 anni. Gli ultimi 3 anni molto, molto intensamente, perché organizzare una mostra grande come questa, ottenere prestiti come quelli dalle Poste di Palermo, i quadri di Benedetta, richiede un certo impegno e anche certi tempi, bisogna cominciare molto prima. Che cosa può costare portare, per esempio, soltanto portare queste opere da Palermo a qua in termini di assicurazione, imballaggio, eccetera, eccetera? Non è tanto, il costo vero è quello, insomma, del lavoro, la dedicazione delle persone, anche chi ha prestato, perché tutti hanno collaborato insieme. Insomma, questa è una delle cose più belle di questa mostra, è che sono stata sostenuta, il Guggenheim è stato sostenuto da tutti, chiunque abbiamo chiesto un prestito ce l'ha concesso, insomma. Ecco, noi abbiamo avuto in Italia ovviamente delle mostre importanti sì. Sul futurismo, c'è stata la mostra del centenario, e qualcuno in Italia diceva: beh, ma il Guggenheim la farà, però noi le abbiamo fatte più belle. Ma è vero o non è vero, secondo lei? Ma io ho visto delle mostre bellissime in Italia per il centenario, e questa mostra non cerca di fare competition a quelle italiane, ma è per introdurre il pubblico americano al futurismo, perché sono state mostre molto belle, ma sono state in Italia, e questa è la prima che si fa fuori dall'Italia di questa grandezza, che copre un periodo così ampio, anche che include opere di tanti linguaggi diversi del futurismo. Perché bene o male negli Stati Uniti molti non sanno neanche cosa sia il futurismo, perciò già bisogna introdurre il soggetto, il movimento, farlo scoprire. Allora introduciamolo. Lei, anche magari molti dei nostri ascoltatori intuiscono cos'è il futurismo, ma perché non glielo spiega lei cos'è secondo lei il futurismo e l'importanza del futurismo? Ma io quando lo spiego qui negli Stati Uniti dico che è il movimento modernista più importante dell'Italia prima della Seconda Guerra Mondiale, diciamo della prima metà del XX secolo. È stato fondato da Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, con il manifesto del futurismo che ha pubblicato sul Figaro nel 1909, dichiarando che bisognava abbassava tutto che era passatista, che aveva a che fare col passato, che l'Italia si doveva reinventare e diventare moderna come paese, ecco. E perciò anche tutto quello che è il moderno, la macchina, il dinamismo, la velocità, la simultaneità, la loro teoria di mettere lo spettatore al centro dell'opera d'arte, l'idea dell'opera d'arte totale. Questi sono temi che hanno continuato, insomma, la vita del movimento si vedono, continuano negli anni 20, anche negli anni 30. Ecco, ma e vanno anche al di fuori dei confini italiani, cioè il futurismo diventa un punto di riferimento per altri movimenti culturali europei e internazionali. Sì, senz'altro, per esempio c'è il futurismo russo, c'era il futurismo in Polonia. Noi ci focalizziamo solo sul futurismo italiano, perché ci vorrebbe un altro museo per introdurre gli altri futurismi. Comunque, devo dire, il Guggenheim, non per farle pubblicità, per carità, però insomma, il Guggenheim è un volano che va ben al di là del pubblico strettamente americano, nel senso che ci sono visitatori che vengono da ogni parte del mondo, quindi questa è un'esposizione, come dire, globale, non è soltanto sì. newyorkese o americana. No, ha ragione, infatti la mostra resterà qui anche durante l'estate, quando noi abbiamo moltissimi turisti. Il nostro pubblico, appunto, come ha detto lei, viene da tutto il mondo, perciò è anche una possibilità per fare una presentazione sul futurismo e, insomma, far capire che cos'era l'arte e la cultura italiana di questo periodo a un pubblico che probabilmente non lo conosce. Ecco, tornando a un messaggio centrale che non è soltanto artistico, ma se vuole anche un messaggio che guarda al futuro, di speranza, di motivazione, che viene dal futurismo, secondo lei qual è questo messaggio? Ma che gli italiani, insomma, sono molto agevoli, cioè loro sono creativi in tanti linguaggi diversi. Direi che questa è una cosa molto particolare e che lì il futurismo ha veramente capito questa capacità di far tante cose, è proprio un senso dell'estetica molto particolare. Ecco, c'è un'eredità del futurismo che lei vede per esempio nei movimenti artistici americani, per esempio? Direi anche più globale, la performance che hanno fatto i futuristi con le loro serate, queste serate organizzate in teatri dove suonavano musica come quella di Russolo, declamavano parole in libertà che erano delle loro poesie molto sperimentali, avevano quadri anche nel teatro, si prendevano a botte con gli spettatori, doveva venire la polizia, ma tutta l'idea della performance loro in grosso modo l'hanno inventata. E direi che molti artisti, non solo americani ma ovunque, che fanno la performance art hanno come un punto di riferimento molto importante i futuristi italiani, infatti conoscono questa loro dimensione del loro lavoro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voglio annunciarvi il ritorno di due giapponesi americane che vivono a New York e che hanno chiamato il loro duo con un nome, pensate, italiano, Cibo Matto. E queste due musiciste hanno prodotto un concept album che devo dire di grande qualità, titolo Hotel Valentine, di Cibo Matto, MFN. Don't let your religious mate with the elitizations kick over, but shake it up, shake it up, shake it up my heart, motherfucking nature. Don't let your curious mate with the elitizations take over, but take it up, take it up, take it up. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. È tutto per questa edizione di Effetto Giorno, grazie a Filippo Aureggi che si è occupato della parte tecnica, in assistenza Laura Faggin. Tra poco le notizie delle 14.